altri. Non mi piace guardare con gli occhi degli altri, degli altri, degli altri. Posso solo creare ciò che io credo sia la verità. Ta, ta, ta, ta, ta. Ritmato Italia, Rimini, discoteca Altro Mondo, Mondo, 31 dicembre 2005, Gigi D'Agostino, Luca Nois, Provenzano DJ, Roberto Molinaro, Capodanno ballato, passetto ritmato. Tanti soldi e successo tra la gente. e la paura di non possedere più niente. Questo basta a infettare la sua mente. Sabato 17 dicembre 2005, ore 22:30, musica e ritmi, Gigi D'Agostino e Luca Noyz, discoteca Privilege, via Torino 80, località Airasca, Torino. Preferito della trasmissione senza ragione Il cammino di Gigi D'Agostino, vai su www.gigidag.com, fai la votazione. musica. Mi diverto con la musica. Gioco con la musica. Cammino di Gigi D'Agostino. Ascoltare una canzone del tuo amico un po' panzone, affacciati al balcone e rimani in attenzione. Notice a half step, but yours is a full climb. You're making me dizzy, pumping the junk into my mind.

forget what you said. A long time away, but always the same. Gigi D'Agostino. Il cammino di Gigi D'Agostino. Buon Natale a chi sta male e a chi chi capisce che è naturale quel dolce male, ma non del fisico, ma del morale. Buon Natale a chi dice ti amo solo per fare un bel ricamo, solo per ledere piano piano. Buon Natale a chi si spancia di risate perché sa usare le posate, quelle posate che ha tra le dita perché sa vivere la vita, perché le usa per i languori ma sa distinguere i sapori. Buon Natale a chi ha capito che l'abitudine ti tiene a vita sotto un'incudine. Buon Natale a chi non fa neanche un regalo perché ha sbattuto contro un palo, o perché ha la luce accesa e preferisce la sorpresa. La ricorrenza a volte è negativa e mette al mondo solo aspettativa, constatazione molto soggettiva. Buon Natale a chi è presente se c'è da fare. Buon Natale ai viaggiatori, ai sognatori, ricercatori, a voi ascoltatori. Lasciate entrare questo abbraccio forte forte. Aprite le braccia, aprite le porte. Buon Natale a chi è presente se c'è da fare. A voi ascoltatori. Orgoglio.